facesse la, come si chiama, la e vabbè, la lastra, dai. E la lastra? No, la lastra o la risonanza magnetica. A me gli hanno fatto fare risonanza magnetica, non è bastata la lastra, capito? Sembra che ci sia un po' di artrosi, però è meglio la schiena, questo, il cane si stava piegando in due. Questo però è meglio fare risonanza magnetica, compresi. Altre cose dentro io. Qui alla clinica veterinaria non le facevano, non le fanno, capito? Tu ricordi che il cane quando sta male in un contesto così all'improvviso va portato alla clinica veterinaria, non va portato alla veterinaria, perché è legge, c'è il pronto soccorso veterinario. Io, il mio è stato male una notte, ha giubilato Lugani, stava sempre vomitando e poi usciva sangue dal pisello, capito? Ho preso, l'ho caricato, l'ho portato al pronto soccorso veterinario. Vedi, se me l'ha regolato, impresso. Poi l'ho portato al mio veterinario. Intanto l'hanno bloccato l'emorragia, l'hanno fatto la puntura, l'hanno tutto visitato, non ci vale nulla. Dipende da quello che ha, l'ha capito. Se è un'urgenza, così. Lo so. Il cane ti porta una spesa, c'è gente che spende anche 2-3 mila euro per farlo operare. C'era un tipo con me in cantiere qualche anno fa, in comune, un tipo spendeva i soldi, praticamente quasi tutti i soldi dei 6 mesi, quasi tutti sopra il cane, e non stava bene. Non so, perché ripeto, il cane fa parte della famiglia, quindi va curato come una persona. Non so. Io mio l'ho fatto anche sterilizzare, so se ci vuole per sterilizzare un maschio, sì. Non è una femmina, no? Sterilizzare il maschio non è una due bucce di gioca. C'è una cura che è abbastanza costosa. Eppure io gliel'ho fatta. Però io, siccome il mio cane ce l'ho nel nucleo familiare, praticamente è scritto l'anagrafe canina, risulta qui, c'è tutta la documentazione, anche del comune. E quindi mi sono fatto fare la fattura sia della risonanza magnetica intestata a me, sia di tutto. Ogni volta che vado al veterinario che pago, fattura. E ho messo tutto nel 730 e mi scarico tutto, capito? Tu, Natalia, hai speso per CUT 1500 euro. E allora, 4 operazioni gli hanno fatto, poveretto. E mi ho bruciato tutta l'estate, tutto, sempre dal veterinario. Alla clinica universitaria l'hanno operato, mi sa di grido. 1500 euro. Alla veterinaria, è poco. In 3 volte gliel'ho pagato, mi pare. In 3 volte era concesso. In 3 voci mi hanno concesso di pagarlo. Dove i veterinari studiano per diventare veterinario, capito lì, alla clinica universitaria, all'università, alla facoltà di veterinari. Ma non male che conosce Barrosa. Che lavora lì, figurati. Io me lo porto io in via Londra, in via Buda, queste cose lì, la clinica universitaria è quella, c'è anche il pronto soccorso veterinario, c'è la facoltà di veterinaria e operano anche, non ho capito perché adesso non operano più, prima operavano, ma non operano più. Addirittura, vuol dire che stava andando male, non gli hanno dato i soldi la regione, bastardi, ma dimmi tu. Lì c'era un veterinario, un chirurgo che l'ha operato uno di Tempio. Andato. No, dice che non operano più. Ehi, dove operano? Non operano più lì. Perché vuol dire la regione non gli ha dato i finanziamenti. Non c'è. È uscito anche nel giornale, Natalia. Ha rischiato di chiudere la veterinaria, la clinica universitaria, ha rischiato di chiudere proprio la facoltà di medicina generale, capito? Compresa anche la clinica veterinaria, perché la regione non ha dato fondi. capito? L'ASL non ha dato più fondi, quindi convenzionamento ASL chiuso, niente, non operano più. C'è le porti il cane, c'è il pronto soccorso aperto, c'è le porti il cane che si è fatto male, che ha bisogno di una cosa, ne buoni due punti, devono fare insomma una visita eccetera, sì, ma operare non operano più. Dimmi Ducat, c'hanno tutte le sale operatori sto qua, ma io cazzo, la regione non dà l'idea, a chi si, ma se no come fanno a rubare? Già ti fanno pagare, perché dovrebbe essere un cane che ha il microchip, dovrebbe essere curato come una persona, come ti cura, a me devi ne cura pure, invece no chi paghi? Lei se ti sto dicendo, io non so il microchip, c'è il microchip, c'è l'iscrizione all'anagrafe canina, è denunciato al comune perché vive dentro casa, capito? C'ha tutti i documenti, il libretto sanitario, come una persona, c'ha tutto, c'ha il nome, mi. Nome, iscritto all'anagrafe canina, come Filippo Marti, mi. Nome e cognome, capito o no? Chiaramente c'è scritto cane. Cane di Italia con tutto c'ha scritto tutto, c'ho una cartella con tutta la documentazione di Filippo, non l'hanno voluto operare, ma ne mandato da Oristano. Dimmi tu, è anche curto, è così, è scritta l'anagrafe canina, infatti c'ha il cognome di mia moglie, il cane è intestato a mia moglie, non lo so, è una legge ingiusta. Dovrebbe, la cassa mutua dovrebbe averla anche il cane praticamente. Cioè, noi abbiamo fatto un comitato e abbiamo mandato una lettera alla Brambilla, non sai chi è Brambilla, no? Che è la parlamentare praticamente, che è il presidente dell'associazione animale. Ha fatto anche una petizione in Parlamento, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, le sezioni ASL di competenza regionale hanno competenza regionale, non era fottuto dallo Stato, capito? Se fosse una competenza dello Stato allora potevano intervenire, però sono di competenza regionale, capito? La regione è di competenza di Cagliari, quindi c'è un presidente della regione e lui ti deve rivolgere, lui deve fare la legge per poter fare queste cose, altrimenti non fate di nulla, più nulla a me. Beh, sono leggi ingiuste, ma ingiuste però, perché ti capitano questi danni così e sono fior di soldi che spendi. Tu sei stato 50, 100 euro, ma cazzo, si parla di migliaia di euro qua. C'era un articolo nel giornale, in prima pagina c'era scritto a rischio la chiusura della clinica universitaria, facoltà di veterinaria. Questo l'anno scorso praticamente, l'anno scorso, subito dopo l'estate, una cosa del genere, perché il mio è stato male a luglio dell'anno scorso, capito? Non c'era niente da fare, assolutamente, l'ho dovuto portare fuori, qui no, hanno detto no, non è possibile, non ci sono fondi, non abbiamo questo, non abbiamo quest'altro, e mi è costato un pacco di soldi. E ancora oggi non stanno operando, non operano, se il cane sta male, lo puoi portare al pronto soccorso, ti fanno il primo intervento, una puntura, una cosa, se si è fatto male le mettono dei punti e poi ti dico vada dal suo veterinario, noi non possiamo fare niente, capito? Proprio perché non ci sono fondi. Sì, è così, speriamo che non chiuda, sennò dove vanno questi ragazzi a laurearsi in veterinaria? Se chiude la clinica è un casino. Non so cosa dirti, a me mi è successo l'anno scorso e veramente mi si sono girati un po' i pipirizzi perché non c'era altra scelta. Io il cane volevo mettere in sesto, adesso grazie a Dio sta bene, però mi è costato un pacco di là e quindi capisco Luca in quale situazione si trovi, perché io fortunatamente ce li avevo, lui purtroppo li deve togliere da un'entrata solo e deve fare grandi sacrifici, è così, capito? Questo perché, come ha detto Luca, il cane è un bene. l'uscio, veramente non prende di l'uscio. Invece di l'uscio non ne fate né ingraccia né retina all'altro. Luca, chiamami un attimo a proposito che ti devo dire una cosa per pagare. Luca, ci sei? Ce n'è andato a far merenda. Aspetta, lo chiamo io allora, va. Ti devo dire una cosa importante a proposito. Chiamalo tu, chiamo, sicuramente sta facendo merenda. Riccardino. Riccardi. Riccardi. Non rispondi. Allora si sta facendo la doccia. Scito fuori a portare il cane, non lo so, riprova. Ehi, devo dire una cosa che mi sono dimenticato di dire, va, uguale. Ehi, aspetta, già rientra. Sì, ma va a rientrare. Ma Colino Condor non si è fatto sentire. Non so, Antonio, io sono un po' assente in questo periodo, non lo so. Cappa. Sono andato a Platamona a vedere qualche chiappa. Guarda, si sia andato a Platamona. Mi sicuro, eh? Io non sono uscito dal dolore che avevo stamattina. Per niente, poi c'ho la macchina lontano e quello. Dovevo fare una cosa alla macchina nuda, non ci sono potuto andare, ce l'ho lontano da qua e non me la sono sentita. Io sto facendo a me dall'ufficio, dove è San Francesco, a casa dove è San Francesco, e non sto andando da nessuna parte, né uscendo né niente, prendo un caffè la mattina alle 8. Poi passo, mi fumo una sigaretta, lì faccio le chiacchiere con Roberto in officina e poi vado in ufficio. Faccio un po' di cose, mi accognato e poi me ne rientro a casa. Da mezzogiorno e poi io sono sempre a casa. Non faccio più niente, nulla, non sto facendo assolutamente niente. Ma come funziona per prendere il caffè? Io non ci sono ancora entrato al bar, assolutamente. Dimmi tu. Come prima, Natalino, non è cambiato niente. Assolutamente non è cambiato niente. Devi entrare con la mascherina, vai al bancone, ti avvicino normalmente, ordini il caffè, ti abbassi la mascherina, prendi il caffè, fai colazione normalmente. Per entrare bisogna avere la mascherina e poi quando sei dentro te la togli. Non ti devi avvicinare naturalmente agli altri che ci sono, perché intanto è tutto organizzato. Non succede niente, è la stessa cosa di prima, dai. Io a volte mi siedo fuori perché mi fumo una sigaretta, dopo il caffè c'è il tavolino, sono i tavolini fuori. Viene con la mascherina lui, io venire a Bogu, perché intanto non c'è nessuno, non puoi fare comunella come si faceva prima, capito? Quindi me la tolgo, ordino il caffè, mi porta il caffè a voi minando. Normale, come sempre, dai. Non è che è cambiato niente. No, non ho bisogno ancora entrare, Duiro, che inizio un bar. Io stamattina non sono uscito neanche, addirittura me l'ha portato mia moglie. Personale civica, collegamento alla zitta, bene. No, io lo stavo prendendo a casa nel periodo della quarantena a caffè. Adesso, come facevo prima, intanto devo uscire, ma lo prendo un caffettino, un caffè nella gazzata, con un'occhiata al giornale. Mi fumo una sigaretta, poi te l'ho letto, me ne vado al viale San Francesco, fino a mezzogiorno, e poi me ne rientro a casa e basta, la sera sono sempre a casa. C'ho via in pigiama, Gibuddì, non esco mai io. Nel modo più assoluto, a casa, sto bene così. Ma io ce l'ho una di queste antenne così, cazzo, però non funziona, no, più segnali non arrivi. Tu pensa che ho messo l'amplificatore anche in quell'altra, in quella che ho nel tetto, se no il segnale non arriva. Addirittura, vabbè. E non vedi niente, cioè non si vede niente col coso, con la parabola mi sta vicino. Ma Roberto gli hai detto se te la regolava lui. Lui c'era da fare per regolare le parabole. E adesso glielo dico, se me la controlla. no, non è possibile che non becchi il satellite, boh. Io in campagna, a me mi fanno, anche in terra la metti e funziona, però cazzo, purtroppo c'è il palazzo troppo vicino e gli togli l'angolo praticamente dove può beccare il satellite, perché c'ho il palazzo di fronte che è troppo vicino. È un piccolo stretto questo, mamma mia. Diciamo, non sai che è un piccolo stretto, non è un problema quello, ma l'occhio della parabola è messo bene, i collegamenti sono tutti fatti bene, fatelo controllare da Roberto. Roberto non ha visto nulla, bisogna che venga qua Roberto e si rende conto. Se no come ti cavolo si va? Se questi me ne staccano l'antenna abusivamente, perché non lo possono fare? Perché c'è il diritto d'antenna anche nelle proprietà altrui. Poi ho già fatto le fotografie come che l'antenna è installata. Mi ho segnato il giorno che gli ho fatto le fotografie e tutto. Quindi se manca l'antenna o non mi funziona la televisione, so Eddie. Ma certo che sì, no, non si può toccare, quello non è un bene primario, ho capito, la televisione, anche perché paghi la tassa per la televisione, quindi è un bene primario, non si può toccare, è roba di legge. E diglielo a Roberto, chiamalo, se ha 5 minuti, se si avvicina con lo strumento, a vedere, dare un'occhiata, se tutto a posto, lui è un mago nelle parabole, è un magone come persona, ma è un mago nelle parabole. E infatti glielo dico che è magone. Lui è. Io dico sempre, io non mi credo dietro. No, ma bravo, davvero, bravo, perché lui aveva una TV privata, c'è ancora tutta l'attrezzatura a casa sua. Cazzo, mia parabola va via, l'ho vista io, ma 2 metri era di circonferenza, una cosa enorme. C'è ancora il piantone, capito? Però se ne intende lui di queste cose. Lo fai misurare, vede un po' se c'è il segnale, se l'occhio della parabola è messo bene, cioè ci sono tante cose, perché guarda, il mio vicino di casa, proprio quello che è di fronte a me, c'era nel poggiolo, capito? E le puntate erano giardino, prende tutto, io a volte ci guardiamo anche le partite assieme, prende tutto. Eia, solo che io ho l'angolo dove deve prendere quel satellite è coperto, aspetta un attimo che stanno telefonando. No, non mi risponde. Ma quell'angolo, scusa, non penso che sia quell'angolo che faccia, che crei problemi, non lo so. Claudio. Dimmi, Ricca. Beh, cosa mi racconti, come stai? Che non ti sei più fatto sentire. Io mi sto già sto bene, ma non ne ho voglia in questo periodo di fare radio, io sono a periodi, Ricca. Non è che ne abbia molta voglia, non sono molto motivato, capito? Adesso sono entrato, visto che non c'è nessuno, così a fare 2 chiacchiere con Natalino, poi non è che ne abbia tanta voglia di fare queste con tanta gente, eccetera, capito? Tu hai risolto? L'ho risolto. Cos'hai messo, 60? No, qui è il +2, sta andando benissimo il +2 che ho comprato da fuori. Sì, quello celeste già lo so, non avevi detto. Quello è un signor microfono, vai benissimo, l'ho provato anch'io col K e va bene, lascia quello, non buttare via soldi, investire in altre cose, ma il microfono già ne hai. Con quella radio va bene qualsiasi tipo di microfono a tavolo, va. Fatelo dire da uno che ne ha provato di mille ne ha provato microfono. Tutti i tipi di microfono ho provato io, quelli sui e quelli non sui, adattabili. Quindi lascia quello e va bene. Fregatene, ottimo per la truppa. Papà, ieri è passato Roberto, stava provando il suo 60 e mi hanno detto che va meglio il 2, il +2. Ti ho sentito. Va molto meglio il +2, sì. Va bene. Dovresti provare un microfono di quelli, vedi, quello che aveva fatto Fabrizio, l'MB +5 a Massimiliano Bulldozer, gli aveva fatto pronto con la connessione 8, alimentazione diretta. Devi provare uno di quei microfoni, perché con gli adattatori fischia, invece se ce l'hai diretto funziona molto bene. forse anche meglio del più 2, capito? Vado a provare, lo so. Ia. Ma ci vediamo, sta andando su, nuovo. Dentro la scatola. L'ha fatto Fabrizio, gli ha messo il cavo schermato, il connettore 8, l'ha modificato all'interno, prende l'alimentazione diretta dalla radio, quindi non hai bisogno di batteria, capito? Se ti serve glielo dico e te lo prendi, almeno c'è un microfono sicuramente meglio di quello lì perché spinge di più, capito? C'è anche la regolazione dei toni e sicuramente spinge molto molto di più perché lui andava molto bene. Lo so, è da provare, si può vedere. Se voglio glielo dico non c'è problema, capito? Perché lui si è preso a 60 e quindi sta dando quello là. Se ti interessa me lo fai sapere, ma glielo dico, me lo faccio dare e lo provo. Se va bene te lo tiri, se no me lo restituisci. Ciao, ti faccio sapere. Ehi, va bene, insomma vengo con Roberto lì, così vedo come ti sei organizzato dal vivo, che ogni volta mi mandi le foto, che non so manco dove sei, e lo proviamo assieme, così lo vediamo se va bene. Ja, che lo proviamo, fammi aspettare un po' che già c'era un po' di casino in garage, che stavo facendo il trasloco dentro, devo solo piazzarmi l'antenna, ho già il 213, è tutto pronto, mi manca solo l'antenna che fra un po' la ordina. Ia, va bene, non c'è problema, quando vuoi avvisami e poi ci vediamo con calma, non c'è problema. Ia, dai, vediamo se è tornato Natalino, ci sei? O è ancora al telefono? No, è la mia zia che mi ha telefonato, già ci sono. Ma continuate. E perché tu non puoi rimanere? Attimo, sto mettendo una vite, sono qui, sto cercando una vite per uno stereo che l'ho persa da un po', e gli attacco e torno subito, tanto sono qui a 10 centimetri il vassoio delle viti. Kappa. Genio. Tuge, Claudio, ci sei? Riccardino, chiama tutti. Hai sentito quello spagnolo che ti ha preso per una femminuccia, sì? Come mai non gli hai detto niente? Ho lasciato perdere là, perché sennò lasciamo perdere. Ma la bella pitbull. E non ho voglia questo periodo, no. Non sono molto motivato a fare radio, mi sono entrato così, c'è Riccardino e Natalino, in tre così, giusto a fare due chiacchiere, ma non la giovi gana il sabote, oggi. Ma lo sai che io non ti sento, sto male, non dormo la notte. Lo so, caro Pitbull, però lo sai, Chihuahua ogni tanto ha bisogno di stare a riposo, è anziano la mani. Ah, va bene, là, importate che stai a posto, là, allora sono che posso venire. Tranquillo, tutto in ordine, perché non viene gana, capito? Non sono manco impegnato, la verità, però faccio molto ascolto, non io voglio chiacchierare, tutto qua, capito? Niente di particolare. Va bene, molto problema. Kappa, dove sei? Al porto. Mi ascolti bene? Sì, io sono col baracchino. Io non riesco mai a capire quando cambi, la tecnica è quella, ormai la chimica è quella, lì. E vabbè, già si sente, questo non è un K, questo è un Turner col Polmar 7000, capito, è un linearetino proprio di quelli piccoli per far arrivare almeno a 20 watt, se non a 4, e non arrivi a lui. Natalino, ascolti Eugenio? Ehi, un attimo che sto guardando roba al computer. Uia. Bene, questo domani è andato temporale, non pioggia, temporale domani. Ma dimmi tu, siamo quasi a metà giugno. Ma l'ho visto, una scocciatura. Ma, sì, Antonello. Ciao, mi sembrava la voce di Antonello, quello di Portogia. Ciao, Manuele Cinco. Ma infatti, oggi è puro freddo. Le magliette mi sono messo una magliettina un po' più pesante, veramente. Stamattina, c'ho uscito in moto, mi sono dorato cancarato. Sì, con lo scooter sono uscito. Ma cazzo, non sono tornato, tutto cancherato, pario... Cazzo di inferno sembrava. Se non è caldo è meglio, l'importante è che ci sia una temperatura equa. No, perché mio cognato c'è l'ufficio via San Francesco, capito? Lì non c'è mai parcheggio, allora vado in moto. E io esco all'otto, te mesi, sto ma avere un freddo. Mamma che ti do. Claudio. E merica. Cos'è? Ti piace quell'apparecchio che ti ho mandato alla posto? Sì, ti ho anche risposto, ti ho detto che l'ho avuto anch'io quello. Bello, bello, grande. Sì, l'ho avuto anch'io, poi l'avevo versato ad un arrivatore per prendermi un... che lui aveva bisogno di un apparecchio del genere. E quindi l'avevo versato per prendermi un altro HF, capito? Sì, sì, già sono belle cose, dai, vanno bene. Ero scusa che me l'avevi detto. Ti ho risposto subito su WhatsApp, te l'ho mandato il messaggio, ti ho detto bello, ti ho anche spiegato che l'ho avuto anch'io anni fa e poi l'avevo versato per comprare altro, ti ho scritto, capito? Hai ragione, sono io il problema, me ne sono dimenticato. Ma tu non ti devi dimenticare, capito mi hai? Va bene, va bene. Eugenio è arrivato, sia al lavoro. Un bel lavoro ci avete? Quando vedi a Gianni Mauro o a Mauro Gianni, come te lo chiamo io, salutamelo, capito? Saluta, tanti saluti a Pasqualino. Già sono qua. Chiamo andare dentro, arrivo subito. Ma vento non veneno, oh, e oggi? Si sente un po' qua a Sassari, che c'è questa brezza fredda, però pensavo che non fosse maestrale. Infatti stamattina è che ve l'avevo detto. Adesso un po' meno. Un ponente buzzinuccio, ti senta l'uscio e la mazza nelle varie. E allora, Manuele Ginco, mai sarai questa antenna? Sì, la zio Tonino, lì la zio Tonino, fatti piazzare l'antenna. E lo gioco questo padrino. Luca non te la può fare un'antenna come i cristiani, cazzo. Vabbè, ma già te la può fare lo stesso, dai, se glielo chiedi già te la fa, Luca non è di quelli che sta lì a cincischiare. Poi piano piano vedrai di là, ho preso vicino ai problemi, no? Il materiale è quello che costa, capito? Ma infatti quello è. Quello, il materiale ci vuole, poi magari la manodopera a voi ve la bachi, però ci vogliono i soldi per comprare il materiale, che purtroppo non li regala nessuno, cazzo. Ci la viene regalati i rigosi, è stato più facile. Manco carte che sono regalati di più. Oia, Pitbull, dove sei arrivato? Cosa, Gabibbo, ancora amico, Come si chiamava Gabibbo? Secchi, ancora amico, Sì, da Marco, lì, da Marco Secchi, ancora aperto all'ingresso dove passi tu, all'Asi. Ah, ma sempre Marco c'è con la moglie. Lo so, i direttori sono morti tutti e due, hanno lasciato tutto a lui. Cazzo, quando io ero a Leni, che era una miniera quel posto, lo sai. Una miniera, già c'è di una miniera, di Vazia 7-0 al Romano, alla portineria centrale. Beh, con le sole navi. Ma invece il chiosco di Magattia c'è sempre, o è successo qualcosa lì, sono anni che non ci vengo. Chi è morto? Ah, quel baretto che c'era, fatto al chiosco, il suo container, cosa era? Vabbè, poi c'è rimasto fermo, lì non c'è lo spazio per ricevere la pandemia, sicuramente non avrà più, Ah, siamo Antonio, sono guardo. Poi... Chiuso la Tirrenia lì dove è nato il bar di Magattia, che è stato una miniera per Porto Torres e anche zone limitrofe, non è andata più bene, capito? Non è andato più bene. Io a perdere tutto, i figlioli se ne sono fottiti, capito? I figli se ne sono fregati. E io lo gioco, sono mezzo parente di mia madre, già lo so. La moglie di Pietro Magattia è la sorella di mamma. Io già lo so. so tutto oggi. Vabbè, purtroppo è così. KK. Sarevano un bel forte, eh? Sarevano forte, quasi 9, sì, 8 e qualcosa col baracchino, sì. Ecco, la lanterna è tarata bene, funziona bene oggi. Funziona benissimo, alla grande, infatti stai arrivando molto molto bene. Vabbè, l'importante è che esci, che arrivi e già funziona bene, non ti preoccupare. KK. Ehi, ehi, diamo un bello franco, se ti interessa. Quando sei pronto, contattalo, nuovo, veramente bello, nuovo, nuovo, nuovo, capito? Tipo quello che c'ho io, mi. Franco di Sorso. Sì. Quando sei pronto, lo contatti, almeno sai che c'è una radio nuova. Appa. No, è un C80, bello. Metatore ci vuole, allora te lo puoi dare metatore e ti organizzi come cristiani. Non è venuto ancora, non ha le telefoni, non sa fare da in radio, quindi lo chiami per telefono e glielo dici e ti metti d'accordo e lui reso non parla con quello, è uguale. Sono quattro i modelli che vanno bene oggi, capito? Il 430, il 440, il 680, il 140. Quello è superiore al 140 e poi c'ha una banda in più anche, capito? Il 440 è più completo, c'ha altre cose, ma quello lì è, diciamo, il secondo, dai. È una bella radio, c'ha i 6 metri, c'ha 50 mega, è una bella radio. Se te lo dico io, vai tranquillo, l'ho avuto io e è una bella radio. Non ha niente da invidiare il 440, anzi, è meglio il 440 in certe circostanze, perché non fa difetti che fa il 440. Non ti appassionare il 440, il 440 è una radio che va accesa tutti i giorni, usata tutti i giorni. A chi si rattene il tornato a Magheta non funziona più. Sì, addirittura ha un problema sui condensatori che si scaricano, non tengono le tensioni, un casino. Tu immagini, io tutti i santi giorni non accendo altro, tutto spento. E 4.40 lo accendo anche adesso, è acceso. Io lo accendo alle 8 del mattino e lo spengo a mezzanotte. Anche se non lo uso, ma va acceso. Quello no, quello è un muletto. Analogici ci sono tutte e quattro, anche 4.40 è tutto analogico, analogico meccanico, e così sono gli altri tre, sono tutti uguali, sono usciti uno dopo l'altro, capito? Però sono i quattro dell'Ave Maria, nel senso che sono i migliori che vanno il 27, è il meglio del meglio. Il DSC80S si chiama. Guardatelo su internet, digiti Kenwood DTS 680S e te lo guardi, è molto bello. Io e oggi ci sentiamo, stammi bene, dai, sono in ascolto. Ciao Manuel, rimango in quel rickshaw dopo, se coincide, dai. Eugenio. Tanto lavoro Eugenio, ricca. Sì, l'ho salutato, ciao Eugenio. Ma pensavo l'avevi chiamato, dai. Dai, io rimango in ascolto, ricca, due chiacchiere le ho fatte, arrivati, ci sentiamo dopo se coincide, ok? Ciao. Ciao, ciao Claudio, a dopo. Allora resto in ascolto, che tanto vengono, per un po' vengono persone a casa, e se no riprendo dopo, ciao a tutti. Ehi, ciao ciao. Hola. Tonello, ben ascoltato. La verità, sono tutto orecchie di porco, anch'io stavo ascoltando se entrava qualcuno, comunque sono qui. Lo so, oggi non ne hanno molta voglia. Bianco per me, aspetta, mi stanno chiamando. Luca. Non è Luca. Ah, ciao. No, stavo cercando a Luca. Stavo cercando. Che gli devo dire una cosa. Basta chiamarlo. E non risponde. Che la faccia di ciucucciù. attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Avanti, chi è? Ciao Leoncino, già ne ho più uno, avanti. Vabbè già, a posto, sì. Diciamo di sì, per andare a specie è meglio così, dai. Da domani viene il fisioterapista a farmi fisioterapia. Oh via. Era ora, ragazzi. Da febbraio, anzi da mentemo. E a me mi ha ordinato questa cosa, perché oltre a 800 pulcine e 90 giorni e poi da Volpere a stomaco pieno, hai capito? E perché cosa c'hai Giuseppe? Allora io sto devo formare questa cosa della no, la tabella acida, quella cosa là si deve riformare, capito? È quello che mi ha detto. E costano, sono andato a chiedere quanto costavano, ma sai quanto costano? 30 euro. E non te le danno con la mutua. Negativo, no, a pagamento. Come si chiamano, mi hai detto? Con drive 800. E deve essere a base di coso, di calcio, dai. Se lo sapevo, cazzo, ce l'avevo io, lo date. Ce l'avevo una scatola intera perché le stavo prendendo, poi lo date a un amico. E vabbè. Sì, si costano così, costano. Anche io li ho comprati, li ho pagati. Appunto perciò, adesso, quando ritiro a fine mese, me le prenderò. Anche se mi ha ordinato la terapia da Nissa alla Gaudi. Ho preso adesso, ho preso un antibiotico per il dolore, perché tanto non facevo più con questo stato di dolore, questo è la gamba. Ascolta, ma tu cosa hai fatto? Risonanza magnetica per vedere cosa c'hai? Sì, io ho fatto l'attacco, tanto giù a Bassamona. E cosa ti hanno detto? Ho detto i legamenti molto partiti, poi c'è questa cosa del ministro che se ne sta andando, hai capito? E se non facciamo questa cosa non si può mai formare questa cosa della cosa, no? Per riformarsi nel lotto, capito? Il menisco, Giuseppe, è una specie di spugna che c'è tra un osso e l'altro, che serve quando tu salti per ammortizzare. E non è cartilagine, è tipo è spugnoso. A me mi si è spappolato, io ho dovuto operare il menisco, era Alghero. Spappolato il menisco, poi un legamento, uno era al 50% staccato e l'altro ha staccato di tutto, mi hanno fatto i legamenti e il menisco. E appunto perciò adesso cosa dovrei, ma io gli ho chiesto allo specialista, no, a dottor Manca, gli ho detto, ma dice adesso prendi questa cosa, poi fra mi ha detto, fra da, controllo, fra... Tra 3-4 mesi controllo, capito? Per vedere se sta andando tutto bene, capito? Poi me lo dirà, adesso, ma io ho detto, ma che rischio cazzo devo operare? Per adesso no, ma adesso, poi si vedrà. Vabbè, se si può evitare, Giuseppe, meglio evitarlo, dai. Vabbè, io già lo so cosa vuol dire, perché a me la mia gamba sembrava una marcia sboccolata, si andava con tusuglio, uia, tutto molle, che per alzarmi la gamba, per coricarmi dovevo prendere col piede dell'altra gamba e sollevarmela, come se fosse una gru. A me, a parte quello, a me tanti dolori che mi vengono, guarda, è una cosa allucinante, la notte è tanto qua. Devo dormire con la gamba fuori dal letto, capito? Per il dolore, poi abbiamo questo scatto di trampo, intanto guarda, è una cosa allucinante, cioè proprio, tanto è da picciarsi addosso, capito? Dal dolore che mi vengono. Già lo so che è così, già lo so, l'ho avuto anch'io, quindi nessuno di me ti può capire. L'ho avuto, io ti parlo di un 5 anni fa. Ma io ho fatto cosa, sai, mi sono trascurato, avevano avuto l'incidente giù a Sant'Ossola, che mi hanno pigliato il pieno. Nel giorno che io ero ricoverato lì all'ospedale, non mi hanno fatto niente, mi hanno fatto ricoverato lì e poi non mi hanno detto che c'era questa cosa, qua, là, boom, qua, che dovevo fare operazioni. Poi una volta che io mi ho fatto l'impegnativa per andare al marino, mi hanno tolto solo il liquido, capito? Ma non ho pagato ambulatoriamente, capito? hanno portato questa laboratoria, mi hanno fatto tipo mettere tipo coniglio, mi hanno fatto questa puntura per vedere. Prima la cosa per farti la rombare dietro, no, mi hanno fatto questa puntura per atterrare il dolore. E poi giù hanno infilato questi aghi per attirare il liquido, ho capito. A me non detto, hanno fatto l'anestesia, a me me l'hanno spiegato senza anestesia e mi hanno fatto vedere le stelle. Mi entravano la siringa e toccava l'osso, cazzo, guarda, da morire dal dolore. Anche a me, guarda, vabbè che avevano fatto questa puntura, ecco, ma guarda che io soffro di pressione alta, non c'è problema, gliela facciamo passare noi la pressione, non si preoccupi, lei sia tranquillo e cerchi di rilassarsi. Una volta mi hanno fatto quelle punture, tanto ero in coma, tanto mi sono svegliato nel letto, forse lo sbaglio mio, cioè, e io quando sono salito in camera, dovevo coltare, no, cosa ho fatto? Ho preso, c'era una persona più anziana di me, no? E è caduto in terra, e io cosa ho fatto? Dopo ho fatto questa cosa, ho preso e sono... e l'ho aiutato, cazzo lì, ho sbagliato io, cazzo, ma non me lo muovere, cazzo, invece ho preso, mi sono morto, cazzo, e ecco il risultato. E a volte si fanno le mosse meccanicamente senza pensarci, e poi io ieri per infilarmi i pantaloni io non c'avevo più nulla, dopo che mi hanno operato non avevo più dolori, niente. Ieri infilandomi i pantaloni in fretta che dovevo uscire, ho alzato la gamba più di del dovuto, ho fatto questo strappo, sono stato tutta la notte senza dormire e mi sono dovuto alzare a pigliare i lucchi stanotte perché non riuscivo più a dormire. Poi guarda, adesso spero che mi sia passato. Perché è così via. Perché io sono detto di notte, guarda, mi sono addormentato che erano le 4:30 stamattina. Ho preso sotto a quell'ora lì, anche guarda, con un dolore, ma un dolore, volevo andare alla Guardia Medica per farmi fare una puntura, anche il dolore, certo, perché, perché se ci sono una cosa così, certo, qua, è una cosa allucinante. Tu sai cosa devi fare? Ci devi fare un tirare il gastroprotettore e ti prendi i lucchi, quando c'hai quei dolori forti ti prendi una bustina di lucchi e ti passa e ti fa dormire così. Ma tutto questo, quella lista è un dato, come hai detto tu, quello lì, e costa 30 euro. Dunque, adesso vediamo quando arriva al 27, inizierò da dopo il 27 a fare questa cura, cosa devo fare? Soldi non ne ho, io non posso prendere più possibile, capito? Ma certe cose dovrebbero darle dalla cassa butta, invece non li dà altri, me lo so Giuseppe, purtroppo è così. Ma io ho chiesto in farmacia, ho detto, ma se delle cose, ho detto, equivalente, no, di queste cose non ne fanno, capito, perché la farmacia c'è in via Valdetta, mi sembra strano, No, non le fanno, non sono proprio specifiche, perché sono degli integratori a base di calcio, capito? C'è calcio, fosforo, per ricrescere i cosi, capito? Le fibre che ci sono all'interno dell'osso, capito? Ho capito. Aspetteranno, aspetteranno per la cura, tanto dopo il 27, poi quando passeranno 3 mesi, ma adesso 3 mesi e 4 mesi venga al controllo, faccio fare l'impegnativa e venga al controllo, venga l'appuntamento, adesso va bene, non ci sono problemi, su quello non ce ne sono problemi, però cazzo, ma 30 euro cazzo già, un po' pesante, Io da domani devo fare fisioterapia, alle 11:30 avviene quello lì. La sera quando va a venire, il 18 mi hanno operato, sono stato una quindicina di giorni, i primi doveva venire, poi si è successo questa cosa del coronavirus e hanno rimandato di mese in mese. Adesso, grazie a Dio, si sono decisi, meno male. Io quella come là della tassi era già ordinata da febbraio, capito? Da febbraio. E a me mi hanno chiamato neanche a aprile, ho capito. Dunque, ma mi sembra strano che non abbiamo chiamato. Aspetta, ma scusi, ma come stiamo giocando a nocciolina oppure prendendo per il culo le persone? Se non mi avete chiamato, io non colpa non ne ho, va bene, ho detto che era per la storia del coronavirus, sì, va bene, però le persone le sapete, dovete avvisare, sapete il mio numero, sapevate il mio numero, e tutto quanto, io l'ho ricevuto, telefonate, non ne ho ricevuto, così è, non ho capito. Ho capito, ho capito. E vabbè Giuseppe, diciamo che si la futti in un bel pulla. Fanno le cose molto con calma, non ne frega nulla degli altri, tutto come se non fosse una cosa urgente. A me lo stesso, dovevano venire, il dottore continua a dirmi, devi fare fisioterapia, noi a pagare non ci vado, perché sono 35-40 euro ogni volta che vai. Ce l'ho, diciamo, gratis la fisioterapia, mi fanno l'impegnativa e via, capito? Ho capito. E senz'altro faranno anche a me così, perché poi fatta questa cosa qua mi metteranno a fare fisioterapia anche a me, secondo cosa mi dicono. Vabbè, certo che sì. Secondo come muovi la gamba te la fanno fare la fisioterapia, io adesso grazie a Dio la gamba un po' la muovo. Diciamo che faccio tutti i movimenti, tranne che ieri ho fatto quello strappo, cazzo un po' mi fa male adesso. Però in linea di massima la muovo bene, dai. Già lo sto toglio, ma anch'io non la muovo molto bene la gamba perché almeno hai capito come stia portando sopra una gamba, capito? Dunque, sto facendo peso su quella sinistra, capito? Io non ho avuto una cosa normale, non è stata una passeggiata la mia operazione, mi hanno asportato un pezzo di osso e mi hanno messo la protesi, quindi non è stata una passeggiata, dolori dell'altro mondo, mi hanno fatto anche la morfina all'ospedale. Va bene, dai, ma ho chiamato il telefono, sentiamo dopo, dai, ok. A Giuseppe ci sentiamo, dai, ciao. Avanti Nicola, buonasera. Vabbè, diciamo che sono problemi già risolti, dai, in grande parte sono stati risolti. E anzi, meglio che si sappia, se c'è un malessere o una cosa, sarò come comportarsi almeno. Io ce l'ho attaccato al portafoglio, il gruppo sanguigno, 0 RH positivo, perché facevo servizio ambulanza e ce l'avevo attaccato, capito? Ce l'avevo attaccato alla divisa e poi una volta che ho smesso di fare servizio ambulanza, me l'ho attaccato al portafoglio. Tu come apri il portafoglio vedi il gruppo sanguigno. Dalla gara. No, io non sono donatore, non ho mai donato. Ho fatto servizio ambulanza, il gruppo sanguigno, chi fa servizio ambulanza serve, onde evitare se succede qualche incidente, Dio non voglia, devono sapere di che gruppo sanguigno sei, almeno per riattivarti subito il sangue, capito? Ah sì, non te l'avevo capito, sì, quello sì. Sì, io ho 0 RH positivo, è il gruppo più comune che c'è. Di che genere? Ho detto di che genere? Dio ti ascolti, come faccio a vincere se non ci gioco? Io ce l'avevo, adesso è morto. Era Detroit nel Michigan. E cosa beveva mio zio a colazione? Whisky. No, ma mio zio lo beveva a colazione, basta, è finito lì, a colazione, perché lui dice che loro sono abituati per riscaldarsi, ma io ho detto, il whisky non riscalda, brucia. Sì, lo so. Conosco tutte le loro usanze e niente. Quindi, già, conosco tutto della Russia, perché avevo una ragazza che era russa. Quindi conosco tutto. Era lì, una città della Russia, aspetta, come si chiama, ma vabbè, non mi viene adesso. No, la mia ragazza era di Uffa, Uffa con una F. KK, andare. E tu non hai mai avuto ragazze russe? Vabbè. No, io l'ho avuta per 6 mesi, 7 mesi, poi l'ho mollata. Perché le russe lo sai come sono, vogliono farsi la casa, vogliono farsi abitare, mangiati di là, tu gatto. Ma le russe vengono con quello scopo lì. Le italiane ce ne sarà una su 1000, ma le russe sono tutti così. Non c'è nessuno. Lui cambia ogni giorno, c'ha sempre gli apparecchi nuovi, ne sta sempre ordinando. Ogni tanto ne ha uno e quindi prova i microfoni, prova questo, prova l'altro, con l'apparecchio, con l'altro, e certo che poi alla fine si riesce a sentirlo benissimo. E dipende sempre dal modo di pensare, dai, c'è gente che lo fa per collezione, per dire Riccardino riprende quelli vintage che gli piacciono molto, stazioni base americane e via dicendo, capito? E si vuole fare una specie di museo delle radio. Lo so, siamo fissati noi, ci piace vederne tante, la stazione, cioè, ti fa l'occhio, dai. È che non c'è il tuo numero, se no io te l'avrei mandata alla stazione mia, è piccola ma sincera, dai. Chi? Io modulo con 3, 4, 5, 6 apparati. Ne avevo la prima, ne ho comprato nuovi, ne ho comprato uno nuovo da poco. No, quello nuovo, diciamo, l'ho comprato da un CB che c'erano pochi mesi. Era nuovo, nuovo, di zecca, ancora con garanzia e tutto, scatola, tutto quanto. C'aveva il nylon sopra ancora. E l'ho comprato da lui, perché si doveva cambiare l'apparecchio e me l'ha venduto. Questo è il Galaxy. Io. Numero 1, non c'è niente da fare. No, anche l'S9 è bello. No, già, questa è la... A prescindere dalla radio, ciao Nicola, scusate il mio intervento, ma io quando sento già neanche questa radio è eccezionale, non perché ti devo affrontare, ma è la pura realtà. Già, tutto quello che puoi dire, S9, S10, S20, 3009, quello che vuoi. Questa è sempre la miglior radio che tu hai avuto, non ce n'è per nessuno. E questa qua è la mia chicca, quella che uso di più, dai. Nicole, attrinciati, almeno una, comprati ragazzi, e comprati l'antenna. Non sarà lui la sfiga di Natalino. Ma tu non abiti nella stessa zona di Natalino, dove abita Natalino ci sono persone che sono, diciamo, a terra, ci sono persone che non capiscono ragioni, che non capiscono quando tu vuoi farli del bene, non lo capisco. Tu abiti in una zona, grazie a Dio, che si presume ci sia gente diversa, dai, che riesce a avere comprendonio. Eia, ti capisco, tu sei un po' fiffone, lasciatelo dire, scusa se te lo dico, però devi lanciarti nelle cose, se non ti lanci non farai mai niente, se stai a tentennare qua e là e boom, e non ce la farai mai. Devi buttarti, poi quando succede una cosa l'affronti, punto. E vabbè, ma io ho potuto chiedi a Claudio quello che ho battagliato io per i baracchini e cose, tutti l'abbiamo avuti questi problemi, tutti quanti. Però poi siamo andati avanti, non è che alla fine poi si trova un accordo, io nel mio palazzo gli ho fatto cambiare l'antenna, ci hanno cambiato l'antenna, ne ho messi soldi anche io perché parte l'economia, la devo pagare anch'io. Tutto lì, abbiamo messo la Francaro dal giorno, adesso sono passati più di 15 anni, no Claudio? Sì, sono 15 anni, ciao Nico, ma tutti abbiamo avuto problemi, anche io mi avevano addirittura quasi denunciato che avevo attirato un fulmine con la direttiva, me l'avevo portato, capito? Avevo portato il fulmine dentro casa, sono tutti pazzi Nicola, come ti ha detto Gianni, affronta il problema, è un tuo diritto, è legge, e sei stato nell'arma per tantissimi anni, quindi conosci bene le leggi. È legge, il diritto d'antenna è legge, caro Nicola, quindi tu la piazzi metti tutte le cose in regola, capito, baracchino omologato, tutto omologato, e vedrai che non succede niente, nessuno ti può dire niente. In caso contrario, come ti ha detto Gianni, affronti il problema, ma se rimani così non ne tirerai mai i piedi. Ma la FIFA ti deve passare, se nel lobby c'è anche la FIFA, e allora non si fa più niente, purtroppo è così. E quello che ha passato Gianni, è uscito anche il giornale, le mettevano i fogliettini sotto la porta, nella cassetta postale, lo insultavano, lo facevano, dalle finestre, eppure l'ha spuntata perché ha fatto bene. Se tu invece non ti tiri indietro, non affronti il problema, quando uno ha la ragione, il problema va affrontato. Se uno poi ha torto chiede scusa, ma quando uno ha la ragione va affrontato il problema, e affrontando il problema si risolvono i problemi stessi, capito Nico? Però tu sei fifone, te lo dico anche io, intanto abbiamo tutte e tre la stessa età, mi sembra, tu sei un po' fifone, capito? E prendi già che mi sto preparando per portare il cane, mi faccio una passeggiatina dopo. E via, Nicola, io, guarda, ho affrontato la cosa così. Ah, quello che mi si affacciava la festa mi diceva cosa? Ho detto vai e grimba ed è grimbato. Non so se capisci sassarese. Un altro lo stesso, mi ha detto tutti i colori e gli ho detto la stessa cosa e purtroppo se n'è andato buruissimo. Quindi se ti serve una mano o ti dico qualche cosa chiama a me che ci penso io. Ehi, ma se ci sono persone che te lo provano le scatole, dillo a me che non c'è problema. Io due la gioia fatti grimbare. E certo ci sono io. Oi Antonino. Ciao, avanti prego. Buonasera a tutti, faglio master da questa per un controllo. E che controllo ti do? Non lo so, com'è questo controllo? Come sta arrivando di segnali di radio? Santiago 2, RDC. Santiago 2 con antenna nuova. Aiuta. Sei fondo scala, che cazzo di dopo? Ma che sei scala? Dove sono? Davanti all'ascensore, fondo alla scala. Eia, all'ultimo piano. Grazie a zio, mi va benissimo. Tante grazie, ci sentiamo dopo. Dai, dai. Avanti. Ehi, ma Fabio Master era? No, logico, preso. Siccome è così forte non l'ho mai sentito, però il modo di parlare mi sembra lunga. Che ci abbia messo l'antenna, Fabio? C'erano problemi per metterla, ma magari sono decisi e l'hanno fatto. Fabio Master, ma se non è così, dai, Fabio, forse stanno registrando l'antenna, stanno regolando. C'è anche Lupo Grigio, non so se lo ascolti, Tonino, avanti Lupo Grigio. E c'è Tonino da San Camillo. E cavolo, Santiago Rover è adesso qui, ascolta tutti. Sono insieme al santo di San Camillo e a coppia tutti. E arriva abbastanza bene, che zona sei? Io sono fuori Sassari, fate il quanto. Va bene, sono contento che ti ascolto bene, dai, meglio così. Comunque già, fatta stasera, risonanza magnetica, non vedo l'ora che finisca. Cos'hai fatto? Risonanza magnetica, non vedevo l'ora che finivo. Ah, mezz'ora si sta. 25 minuti. Allora, l'esito dice fra una settimana, io sono a pagamento, c'ero 50 euro, sì, contante, sì, allora fa 3 giorni. Certo, fa 3 giorni. Vabbè. Ma Tony, era da fare. Se me lo dicevi ti avrei consigliato un rigo, pagavi di meno. Ma allora, con di zero l'avrei messo risparmiato. Gianni, ho già chiamato Rigo, non me ne fanno. Ah, è vero, me l'avevi detto. Perché non te la fanno? A me me l'hanno fatta. Perché c'ho la faccetta. Ah, non ci passi della mano. E cazzo, ma la macchinetta dei buffi? No, questa qua, Centro Venezia, c'è una macchina abbastanza grande, bella. L'aria condizionata mi ha messo dentro, poi la pompetta per l'allarme, se per caso mi sentivo male. Comunque adesso mi rimosso l'80% di quello che ho speso. Vabbè, già va bene. Sì. Avanti, chi è Nicola, se non mi ricordo, non mi ricordo più il nome. A Nicola Lupo Grigio, Beh, da comprare sulla antenna, Rizzo. Ciao, Giù. Ciao, Tony. Domani mattina devo partire alle 6:30.